Ma... scusi, questa è la sua stanza? Certo. Vabbè, ma le 100 piante di ficus e le poltrone di pelle umana e il grande acquario nel quale nuotano dei dipendenti sorteggiati? Voci, caro Fantozzi, messa in giro dalla propaganda sovversiva. Fuoco alle polveri. Go Howard Paul Berry. Radio Bomba. Buonasera e benvenuti all'81esima puntata di Fuoco alle Polveri. Evviva! Oh, ciao Dlago, ciao. Qui JP e un altro lunedì a Fuoco alle Polveri, freddissimo. Già l'anno scorso avevamo affrontato il tema del Blue Monday, cioè il giorno più triste dell'anno. Mi sono venuto adesso in mente che è oggi. Ah, è oggi 21. Sì, sì, e 81 come Corsica 81, di cui oggi parleremo in parte, sarà una parte della nostra puntata. Parleremo dell'occupazione di Viale Corsica e della minaccia, sì, di sgombero che ha sulla testa. Poi, caro Leonardo Drago, parleremo di tante avremo qui con noi il collettivo Crisis, che in realtà è già qui con noi, che è già qui con noi, esatto, ma voi non lo sentite. Poco ve lo presentiamo, sì. Poi cosa passeremo? Con rubrichetta, super rubrichetta degli animali. Sugli animali, sì. E poi intervisteremo un compagno della rete SET, che è Sud Europa contro la turistificazione. Esatto, è un nodo fiorentino appena nato. Esatto, proprio. E intervisteremo sulle prossime attività e per cosa esistono, per quale motivazione. Poi continueremo con un aggiornamento sulla situazione Kurdistan, esatto, Siria. Esatto. E tutta questa bella roba, purtroppo. E finiremo con una sorpresa, con una sorpresina che non vi sveliamo. Esatto. Andiamo subito con un pezzaccio. Andiamo subito con un pezzaccio e poi si parte. Via. Dai, Wombat Wombat. Was a promised land, another havoc with my legacy belongs to me. Pin you to the bed, did everything I said, took me to the death, look for solid land. I wore my cross, found a way home, look at me now, full speed, Wikipedia fast as I catch you. You up, beat me up, eat you like a pariah, might cheat you, beat you up, business meet you, creeping up in bed, up the side of my head, play dead, you raise the rent, not my time, I play dead, you raise the rent, not my time, too fast, say that, baby, that. Hey, you're not my mother, can I get a witness? I'm looking for a father. Hey, you ain't my lover, and looking for another, looking for another. Don't know you nothing, you don't know me. I owe you, you don't know me something. Don't know me something, don't know me. Hey, lies travel faster than the truth. All it in, isn't that how the man do? Never can I catch your face. No solid ground, no near have I come. great Chinese wall, whispers cast to make an empty future call. Longitude, latitude, what I have been. No harness, this beast, I don't need to get back on leash. Gratitude, shit, you gave, I didn't ask for this shit. What you can't have, you want on, you don't need to ask. With this attitude alone, I bore this cross, found a way home. Found a way home. Lies travel, accidental truth. Rieccoci, ora non sappiamo più se stiamo parlando al vento o a qualcuno. Vabbè, comunque in podcast ci risentirete, non è un problema. Allora, dicevamo, 81 come Corsica 81. Sì, ma... sì. Non è questo il momento? Sì, è questo il momento. È questo momento. No, sì, sì, l'ho detto così, non mi confondere. Sì, scusa. E il Corsica 81. Abbiamo letto un comunicato nei giorni scorsi, qualche giorno fa, dove i ragazzi e le ragazze di Viale Corsica, dell'occupazione di Viale Corsica, annunciavano la minaccia di sgombero e abbiamo deciso di e l'avvenuta vendita dello stabile dell'immobile. Esatto, stabile che ormai da tanti anni è centro e via di attività culturali, politiche, sociali e tanto altro, musicali, sì. tanto altro. E qual è la differenza? Che ora fa gola. Con che la ora tramvia, fa gola? Con lo snodo, cioè, esatto. Con il nuovo snodo, diciamo, l'arteria di movimento di spostamento da e per Firenze, esatto. Fondamentalmente è diventata una fermata. Sì. Buona per farci un po' di vaini. Esatto, è un quartiere che sta cambiando. Tutti i luoghi che erano che sono stati abbandonati per anni o per decenni stanno subendo quella riqualificazione tra virgolette che la nostra amministrazione e la retorica che domina da queste parti ha scelto per noi. Basta vedere l'ex panificio militare, che diventerà una bellissima, gigantesca e selunga, o il parcheggio scambiatori dietro appunto a Viale Corsia, che mm-hmm. si allargherà fino a inghiottire anche gli spazi verdi, i pochi spazi verdi rimasti, e la stazione il mostro della stazione Foster dell'alta velocità è tutto lì, è tutto nell'arco di poche decine di metri. Ed è inquietante. Abbiamo deciso di leggere il comunicato che hanno diffuso i ragazzi e ragazze di Viale Corsica. Che dici? Sì. Vai, lo leggo. Corsica 81 minacciata di sgombero. Storie di acqua e di fuoco. Si prevedono forti perturbazioni e rifredi. E alla fine ci siamo. Dopo 6 anni la notizia è arrivata. Corsica 81 è stata venduta dal tribunale che l'aveva requisita in seguito alla bancarotta fraudolenta del gruppo Margheri. Ad acquistarla M&M Casa SRL, un immobiliare che agisce per conto del gruppo Intesa San Paolo. Da una parte la nostra casa, quindi, dall'altra il tribunale, la questura, una banca e un immobiliare. Davvero ben sodalizio, non c'è che dire. Il disegno sembra però ancora più ampio e cupo. Ad oggi Corsica 81 è infatti nuovamente in vendita all'interno di un pacchetto unico che comprende anche altre proprietà situate parimenti in Viale Corsica. La stessa via in cui sempre in questo stesso anno inizieranno i lavori per distruggere l'area cane autogestita, sostituita da un nuovo parcheggio scambiatore della tramvia. Si cerca insomma un imprenditore che mette le mani su tutta la via, che porti avanti il progetto di gentrificazione della zona, iniziato con il rifacimento di Piazza Dalmazia, continuato con la realizzazione della tramvia stessa e che proseguirà interessando anche l'ex panificio militare destinato a diventare una nuova Selunga e lo stabile dell'ex cinema Manzoni. Senza dimenticarsi di quel mostro addormentato che è ad oggi la stazione Foster. Possiamo quindi vedere anche lo zampino dell'amministrazione in questa cessione, che di fatto contribuirà notevolmente a cambiare il volto di questa porzione di quartiere. Ad essere sotto attacco però non è soltanto una casa, ma un progetto che ci parla di altri modi di vivere e di relazioni non mutuate dal denaro. La tentazione di narrare che cosa rappresenta i Corsi 81, che cosa effettivamente è sotto scombro, oltre alle nostre camere, è forte. Ogni progetto, ogni stanza dello spazio sociale meriterebbe un racconto a parte. La camerata per ospitare le persone in difficoltà in viaggio, la serigrafia, la sala per i concerti e per le iniziative, la ciclofficina, la biblioteca, lo spazio per le riunioni del comitato della via. Riteniamo però più opportuno e importante e urgente fare fin da subito un altro tipo di ragionamento. La notizia del nostro possibile sgombero non rappresenta certo un fulmine a ciel sereno. Quella scatenata dall'amministrazione fiorentina contro l'occupazione della nostra città è una vera e propria tempesta. Mentre ancora paghiamo sullo sconto delle tante autogestioni distrutte manu militari dalla prefettura negli ultimi anni, si sosseguono le voci dei prossimi attacchi dalla nostra controparte. Neanche un mese fa la notizia dei fondi stanziati per l'anno 2019 per rifare i locali che attualmente ospitano la polveriera. La fattoria liberata di Mondeggi è stata nuovamente messa all'asta e forse già il prossimo primo marzo vedrà uno speculatore allungare le sue mani. Un destino simile forse interesserà il CSA Next Emerson, la cui data di messa all'asta si avvicina in modo preoccupante. Dal loro tavolo di dicembre Salvini e Nardella hanno tuonato contro gli stabili occupati delle nostre città, assicurando almeno altri 5 sgomberi per il 2019. Se tutte queste ipotesi diventassero realtà, il volto della nostra città ne risulterebbe profondamente e terribilmente modificato. La ricchezza sociale rappresentata da tutti gli spazi liberati è tale che pare impossibile anche solo cercare di riassumerla in questo scritto. Certo è che tutte le occupazioni rappresentano un catalizzatore per comunque si faccia portatore di un pensiero altro, un pensiero per cui antifascismo, antirazzismo, antisessismo non rappresentano che le radici di un albero la cui chioma vuole svettare ben al di là dell'essere contro qualcosa, ma a favore di un presente migliore per tutti. Ogni spazio liberato ha la sua storia e le sue idee. Spesso, come compagni che insistono sulla medesima città, tendiamo a dare risalto più alle nostre differenze che ai motivi di unità. Dobbiamo però aver sempre ben presente che i nostri spazi non sono realmente nostri. Appartengono infatti a tutte le persone che li attraversano, da chi viene ogni tanto in assemblea, a chi si avvicina per le serate fuori dai soliti circuiti commerciali, da chi fa box popolare, a chi partecipa alla discussione intorno a un nuovo libro e tanti, tanti altri che al pari nostro si ritroverebbero in una città che non riconoscono più, completamente svuotata di quanto di più sano aveva da offrire. Per tutte queste persone le nostre diversità sono ben poca cosa di fronte a ciò che ci accomuna. Dobbiamo quindi cessare di essere tante fiammelle nel buio e trasformarci in un incendio in grado di contrastare la bufera in arrivo. Dobbiamo, e ne abbiamo piena capacità, trasformare questa minaccia in un'occasione, rilanciare la mobilitazione a fianco di tutti gli altri sfruttati della città. Il nuovo decreto sicurezza ha indicato con chiarezza chi sono gli altri indesiderati delle nostre metropoli. Sta a noi adesso far sì che neanche una scintilla vada sprecata. Con questa convinzione rilanciamo l'assemblea chiamata all'interno dei suoi locali dalla polveriera per giovedì alle 18.30 per parlare delle future mobilitazioni in difesa degli spazi liberati della città. Eccolo. Viva via le Corsica, viva tutto quello che c'è, sì. Che c'è e che ci sarà. Sì, esatto, e rilanciamo sin da subito, prima di dimenticarcelo malamente, dell'appuntamento di giovedì. Sì, non giovedì. Ho detto la data precisa perché ogni giovedì per il momento e poi verrà comunicata la cadenza. Per ora è stato giovedì 17 gennaio e sarà giovedì 24 o esatto. 23, non so fare il conto. E 24, buono, sei bravo. Dalle 18.30 alla polveriera, in cui appunto verranno affrontati questi temi che vengono affrontati anche in questo comunicato, cioè che sì, che vengono spiegati anche molto bene tra l'altro. Esatto. Bene, quindi comunque. Sì, accorrete tutte e tutti e venite tutti insieme, qualcosa magari possiamo portare avanti e non farci mettere i piedi in testa da queste amministrazioni fuori di testa, per rimanere sulla testa. Esatto. Sì, va bene. andiamo avanti. Abbiamo qui con noi, come avevamo predetto, anche sì, previsto, sì, già ormai anche da forse anche qualche puntata, i due compagni, uno compagno e un compagno del collettivo Crisis di Firenze. Ciao ragazzi. Ciao. Evviva. E che collettivo ci spiegate voi, noi lo sappiamo già, ma spiegate ai nostri radioascoltatori che cos'è il collettivo Crisis e cosa fate nella vostra... Sì, buonasera a tutti, noi siamo del collettivo Crisis, è un collettivo che è nato lo scorso autunno in seguito a una necessità da parte degli studenti e delle studentesse di riempire un vuoto che c'era nella scuola di studi umanistici della formazione. E abbiamo varie sedi distaccate, Brunelleschi, San Gallo, Reparata, e sentivamo questo vuoto, non c'era nessun collettivo di luogo e all'interno delle facoltà del centro. Più o meno le altre facoltà erano coperte, c'erano vari studenti che facevano attività e noi percepivamo questo vuoto a Brunelleschi. E quindi è nata l'idea di fondare questo collettivo. Abbiamo già portato avanti varie iniziative. A novembre, con un'una di meno, abbiamo organizzato un'assemblea informativa su DDL Pillon. A dicembre abbiamo partecipato al corteo antirazzista per Samp di Ope Idi. Abbiamo proiettato Diaz in Brunelleschi. E quindi siamo un collettivo, ci interessiamo molto delle dinamiche universitarie, cosa riguarda la vita degli studenti, ma abbiamo anche dei valori base come l'antifascismo, l'antisessismo, l'antirazzismo. E sono tematiche che copriamo anche durante l'assemblea e facciamo molta anche analisi nelle nostre riunioni, che sono il martedì alle 17 a Brunelleschi. Bravo, avete già fatto questa mossa di dirci quando fate l'assemblea. Le riunioni, sì. Bravo. Ok, questo appunto magari è interessante, l'abbiamo intervistato diversi di collettivi universitari negli ultimi anni, e è interessante vedere come in questi anni alla fine i collettivi universitari, di una certa area ovviamente, non si interessino più soltanto alle questioni meramente universitarie, che comunque rimangono importanti per la vita di uno studente, perché sono centrali nella vita di uno studente, ma cercano di allargare il proprio sguardo a ciò che succede sia nella città, nel suo più ampio orizzonte, sia proprio anche nel mondo. Quindi chiedevo un po' a voi questo passaggio, nel senso che fate sia attività all'interno dell'università per gli studenti universitari, proprio in senso di parlare di quelle che sono le beghe per uno studente che fa lettere a Firenze, che immagino non siano assolutamente poche, almeno quando lo facevamo noi erano tantissime, però allargate anche il vostro sguardo, insomma. Sì, cioè ultimamente noi ci siamo occupati anche un pochino del DSU, del studio, e anche delle questioni inerenti al piano di studi, che non usciva fino a febbraio-marzo. Abbiamo un po' discusso con i professori, abbiamo anche provato più volte a contattare il rettore. Però ovviamente nell'ottica di anche una lotta, diciamo, dal basso, extra istituzionale, extra parlamentare, visto che negli ultimi anni più volte noi, come diciamo esponenti di una sinistra più radicale, siamo stati delusi sia dai partiti sia dalle varie promesse che ci sono state fatte nel tempo, crediamo che noi possiamo dare un nostro contributo alla società e alla nostra città, diciamo, a Firenze. E abbiamo anche mostrato più volte, tramite l'azione di altri collettivi o anche di centri sociali e occupazioni, che in realtà possiamo portare un cambiamento in positivo e possiamo anche riappropriarci, per l'appunto, dei nostri spazi, come è successo quest'estate in Santo Spirito, anche per un esempio così banale, quando hanno provato con questa ordinanza a levare un punto di socialità, invece siamo riusciti a organizzarci e farci trovare tutti compatti in 50-60, in modo da, diciamo, mostrare che la piazza, come tutta Firenze, in realtà è nostra, è delle persone che se la vivono e non dell'amministrazione o, diciamo, degli speculatori vari che ci sono. D'accordissimo, direi. Sì. E quindi, appunto, già avete allargato il discorso effettivamente sulla città, sul diritto ad abitarla, ma anche poi, tra l'altro, da studente universitario, nel senso che l'università non dovrebbe essere soltanto un non lo so, nemmeno un contenitore, non so più nemmeno bene che cos'è, di nozioni o anche di sapere, ma anche un luogo dove chi partecipa dovrebbe riuscire a fare socialità. E abbiamo visto che anche nei prossimi giorni ci saranno delle iniziative organizzate da voi e da altri collettivi su un tema che appunto abbiamo detto che affronteremo e che non riguarda, cioè riguarda, poi vabbè, il discorso è lungo, ma riguarda tutte le nostre vite, cioè le vite di tutti noi, anche se è molto lontano geograficamente. Sì, certo, abbiamo ovvero il 23 e il 24 gennaio in Brunelleschi abbiamo questi due giorni di informazione e anche di lotta per sia i cinque internazionalisti che a Torino, questi compagni torinesi, come forse già sanno molti, sono stati messi sotto, cioè è stata fatta la richiesta dalla Digos per metterli sotto sorveglianza speciale per il semplice fatto che sono andati a combattere in Rojava, e così sono stati quasi messi a livello di, diciamo, degli individui socialmente pericolosi. E quindi questo porta anche la repressione e anche il fatto di come l'Italia stia collaborando con la Turchia di Erdogan in questo periodo. E quindi abbiamo pensato per loro e anche per i tanti scioperanti curdi in prigione in Turchia che stanno facendo un sciopero della fame, come una parlamentare dell'HDP che ormai è da 2 mesi che ha questo sciopero ed è ormai allo stremo. E quindi la comunità curda toscana, insieme a varie altre realtà, inclusi noi, abbiamo pensato di fare questi 2 giorni di informazione che inizieranno mercoledì dalle 18 con un presidio, che poi sarà seguito da un corteo che va dal presidio davanti alla prefettura fino a Brunelleschi, e lì ci sarà verso le 9 una proiezione. Ci sarà un dibattito su proprio gli internazionalisti e con anche esponenti della comunità curda. Poi dopo, il giorno dopo invece, ci sarà street art, murales e diciamo anche dei banchini informativi e una raccolta fondi a favore della cassa di resistenza per gli internazionalisti colpiti da questa repressione. E alle 9 ci sarà poi una presentazione, che è un film, diciamo, sulla vita di Sakine Kansiz, esponente storica del PKK, che è stata assassinata a Parigi proprio dai servizi segreti turchi 5 anni fa. E con questo si dovrebbero chiudere queste 2 giornate, in cui ci saranno anche delle cene, dei pranzi, diciamo, benefit popolari che andranno proprio per questi compagni sovinesi. Buono. Buono, insomma, sono 2 giornate piene sicuramente che servono sia per approfondire determinati temi, sia soprattutto per portare solidarietà e anche per creare una socialità intorno a un tema come questo. Poi ho visto che continueranno e noi continueremo a dare voce a questa mobilitazione che da Firenze porta solidarietà verso il Kurdistan. E continuerà anche nel mese di febbraio con altri eventi e via via ogni settimana magari cercheremo di parlarne. Altre attività o iniziative che avete in programma o che anche soltanto vi va di raccontarci? Sì, in questo periodo siamo stati molto presi da questi appuntamenti di gennaio, però sì, possiamo anticipare che da febbraio faremo partire un ciclo di... Noi abbiamo ancora dato un nome, ma è un ciclo che si contrappone a un corso che è stato organizzato in università a pagamento, si chiama Teoria Critica, e praticamente costa sui 400-450 euro questo corso. Cioè al di là delle tasse... Sì, e vale 21, 20 e passa CFU, praticamente tu ti compri dei crediti. Diciamo il paradosso è che in questo corso parleranno di filosofi, pensatori marxisti o di teorie marxiste di questo stampo. Però il paradosso sì è che lo fai pagare, università pubblica, fai pagare per comprarti dei CFU, per parlare di questi temi. E noi nulla, si pensava di organizzare un controcorso, dobbiamo ancora trovare un nome, ci stiamo ancora pensando, di invitare varie persone e sì, creare ma sempre sugli stessi temi o sì, sugli stessi sì, temi? Sì, università, sui stessi temi, però improntandoci molto anche sull'università, il classismo. Bello però, sarebbe positivo. Anche figo che i professori iniziassero a fare lezione nel corso gratuito vostro e non più in quello quello a pagamento. Un professore che verrà è Giulio Palermo, per esempio, a presentare l'Università dei Baroni. Quindi abbiamo già qualche contatto. Buono, scardinarle queste cose che gli vengono in mente. Non si sa bene, sa bene come gli vengono in mente determinate cose a chi gestisce l'università. Certo. E poi magari aggiungo anche semplicemente che dal 28 gennaio ogni lunedì dalle 12:30 alle 3 insieme alla, con l'aiuto della rete dei collettivi fioventini avremo aperti la polveriera, lo spazio comune in Santa Pollonia e per pranzo ma anche come aula studio se qualcuno, qualche studente vuole fermarsi e socializzare un pochino, studiare o anche semplicemente mangiarsi un panino. Bello, bello soprattutto in, in relazione a quello che è il clima di che leggevamo anche adesso degli ultimi, delle ultime settimane, degli ultimi mesi, in realtà poi degli ultimi anni, però sti cazzi, insomma, soprattutto degli ultimi mesi, in cui il, gli spazi sociali della città sono sotto attacco, ovviamente attacco da parte di varie, varie istituzioni, di varie istituzioni e company, e un'iniziativa del genere permette e dà aria a uno spazio che sicuramente ha bisogno anche cioè del massimo apporto possibile dal da maggior numero di persone. Quello che leggevamo prima, lo spazio non è, questi spazi non sono di nessuno, sono di chi li attraversa, di chi li tiene aperti, di chi li fa vivere, e quindi evviva che fate, che fate questa cosa e evviva. Sì. Beh, sì, si vedrà. Teneteci aggiornati, poi risentiamoci qui, nel senso i microfoni sono aperti, quindi quando volete dire qualcosa ci siamo. Cioè, tra l'altro faremo proprio, ci stiamo un attimo attrezzando, ma faremo, che in teoria dovremo finire verso le 18 la, la trasmissione, dalle 18 alle 18 e un quarto, 18 e 20 appoggiamo il microfono su, sul banco e vedete, e quindi può diventare una sorta di speaker corner di momento per presentare delle iniziative o di parlare di qualcosa, quindi sempre benvenuti, veramente ogni lunedì. Grazie, benvenuti. Sì. Ultima cosa, contatti, se avete da lasciare contatti, se qualcuno vuole scrivere qualcosa, sì, dove allora, trovarvi, dove sì, trovare certo. le informazioni. Abbiamo una mail, collettivo stumunifi@autistici.org, e poi abbiamo anche una pagina Facebook, Crisis con la K, sì, mi raccomando. Mi raccomando. Scuola collettivo di studi umanistici della formazione, e da poco abbiamo anche una pagina Instagram. Guarda. Sì. Penso sempre con lo stesso nome, Crisis, sì, sì, collettivo sì. Crisis. Ottimo ragazzi, grazie, grazie mille di essere venuti qua da grazie a voi grazie che ci avete invitato. E ci risentiamo sicuramente presto. Certo. Mandaci viva, un pezzaccio. Sì. Questo è veramente un questo pezzaccio. Questo è accio. Questo è accio. Strano questo, vabbè. Viva, viva. Got blood rushed in my head, they hot lock popping off the fucking block. Now clock and wristlet watch been top off. Step up dragon volume blasting, failing out my brain. Red light flash, dim sob I smash. Abraxas, hydroplane, massive. That's his fight for rain and madness. Massive minor laser, add with black cat fist and the razor stratus. Curb like the far that's lying. Away from it, if I care about anything, anywhere. Losing myself, I get the stairs and I'm looking at. Wasn't there, wasn't there, wasn't there, wasn't there, wasn't there. Nothing out there against staying solid. Hit the ball, sleep the problem, drove the car. I'm still alive, up in smoke, moon is low. As you know, didn't say I did. Who's this, know what this is? But did you know? Get, blood rushed in my head. They hot lock popping off the fucking block. Now clock and wrist, they watch been top. I fly inside, I block them big size. Sneak shots hit for the one who quick size. So many ways to skin the frame. Remember when first shot strays. Now just think it, life away. So what comes next? Ride away, ride away, ride away, ride away. Ride away, ride away. Raise the curve, guilty drug. Come black eye, cover the sky. Don't do people of your eyes. Sick this move. Yeah, I'm knowing it, you know why. Near through mental evidence, I'll pretend hold me, get crucified. Can't close this edge. What's the cost? Meet your head, but I'll end up lost. Should be asking, where's the sex? But with a ski mask on my face. Yeah, got blood rush in my head. They hot, not popping off the fucking block. Not glocking wrist, they watch been top off. Yeah. tropic manic cycles. Fire water burning Bibles. Wake up raging, call the taxi. Take me to the nearest city. Sell out of me, yeah, get at me. Make it quicker, blood, I'm busy. Bit busy. Put a hole into my head, fist the bone, felt the breeze. Lift my thoughts up into bed with a paper cup, skeleton wig. No, nothing since then, but seen. Been floating to the next, it's spreading dreams. Yeah, got blood rush in my head. They hot, knock popping off the fucking block. Knock locking wristlet, watch been top off. Yeah, got blood rush in my head. They hot, knock popping off the fucking block. Knock locking wristlet, watch been top off. Una bella bestia. E rieccoci. Eccoci. Oggi parliamo di, durante questa terza puntata di Animali dal Mondo, parleremo di un animale che è abbastanza particolare, perché è un po' il nostro specchio. È un po' una mascotte anche mia. È anche la tua mascotte personale, questo è importante sicuramente. Vorrei questa... forse essere io a dire per la prima volta il nome. Il macaco. E qui... per la precisione, il macaco giapponese. Esatto, oggi parleremo di questo animale qua. Il macaco, vabbè, è un mammifero, un primate ed è un cercopiteco, quindi la famiglia poi è quella dei cercopitechi. Cercopitechi? Sì, fino a sopra la famiglia, quindi all'ordine, siamo uguali ai macachi. Poi ci distinguiamo in quella fase lì, noi uomini, dico. E il genere poi è macaca. Macaco è il nome, come si dice, volgare. Il nome volgare. Che in generale i macachi vivono in buona parte dell'Asia, cioè praticamente solo in Asia vivono, e un po' in Nord Africa, pochissimi in Nord Africa. Vivono in vari habitat, che possono essere vanno dalla foresta pluviale alle città e anche alle montagne. E appunto arrivano a vivere a 2000 metri di altitudine. Europa. Alcuni macachi, altri vivono solo stambecchi vanno a 2000 metri. Sì, gli stambecchi anche. Un giorno parleremo anche degli stambecchi, se vuoi. Vivono principalmente di giorno, di notte dormono, e principalmente al suolo, dove stanno al suolo. Cioè non stanno sugli alberi, come te l'immagini, stanno per terra. Sugli sono alberi un po' speciali, ci sanno andare, i macachi sugli alberi, ma non gli piace tanto andarci. Mangiano tendenzialmente frutta. Insetti, piante, però principalmente frutta. Onnivori. Mangiano che trovano, certo. Comunque sono sempre un po' come noi. Vivono in gruppi che vanno tra i 10 e i 100 individui, e vivono tra i 15 e i 25 anni. Questo stiamo parlando del macaco in generale, quindi delle 22 specie di macachi che esistono. 22? Le sai tutte? No, cioè, okay. Le sa Wikipedia. Vabbè, però non ho aperto la pagina, quindi non lo leggo. Vabbè. Però ce ne sono alcuni abbastanza divertenti, che sono tipo la macaca nigra, che è nera. La macaca leonina, che ha tutto un pelo che sembra una... è quella col culo rosso anche. C'ha anche il culo rosso, ma soprattutto c'ha questa criniera da leone, cazzo di leone in realtà. Macaca namestrina, che ha una cresta, proprio la cresta, e poi c'ha la coda, tipo la coda di un maiale, è una cosa abbastanza incredibile. Che c'è venuto la coda, invece è normale, come le altre scimmie, la coda tipo a ricciolo. Sì. Bello. I nostri preferiti, però, senza ombra di dubbio, sono i macachi, macaca fuscata, o macaco delle nevi, o macaco giapponese. Belli sono loro. Per descrivervi come è fatto un macaco giapponese, leggerò brevemente un pezzettino di un libro che si chiama Il libro degli esseri a malapena immaginabili, di Caspar Anderson, che è un etologo abbastanza importantino, e vi leggo cosa dice il macaco giapponese. I macachi giapponesi hanno il muso lungo e rosso e gli occhi ravvicinati come quelli di George W. Bush. La folta pelliccia, che di solito è grigia, argento o bruna, denota il loro buon adattamento alla montagna. In inverno si gonfia come un parka su tutto il corpo e sulla testa, proteggendo l'animale mentre tira a campare nella foresta innevate e sulle rive dei fiumi ghiacciati, che sono il loro tipico habitat. Questa pelliccia rappresenta un adattamento eccezionale. Nessun altro primate si è adeguato a un clima così freddo, a parte l'uomo, e solo grazie agli indumenti e al fuoco. Quindi questo era solo per dire dove abitano, cioè come sono fatti, a chi assomigliano i macachi, e il loro habitat. Quindi i macachi giapponesi stanno al freddo, sulle montagne del Giappone, dove evidentemente fa veramente un freddo cane. Sono temperature che vanno anche sotto i 20, 25, meno 20, meno 25 gradi. E perché abbiamo scelto i macachi giapponesi? Vabbè, poi alla fine, ma nessun motivo in particolare, ci stanno particolarmente simpatici, ma perché hanno delle caratteristiche sociali, di comportamento, che si avvicinano molto a quelle degli uomini, nonostante poi non siano la famiglia di scimmie che assomiglia più all'uomo, quello sono altri, però hanno una struttura sociale molto gerarchica, queste scimmie, in cui a capo della struttura gerarchica, quindi immaginate un branco di 100 scimmie, di cui 10 sono a capo della faccenda dei macachi, esatto, giapponesi. All'interno di queste 10 scimmie sono della stessa famiglia, cioè sono imparentate strettamente, quindi si organizza come se fosse a clan, ok, a famiglie, tipo Yahuzia, tipo, esattamente. E a capo di ogni famiglia ci sono le femmine del gruppo. Uh-huh. E una cosa particolare che non mi sembra aver capito, poi sono cazzo io, ma mi sembra aver capito che è particolare, insomma, cioè che il giovane, di solito i giovani animali portano rispetto ai vecchi animali, fino a che non arriva il momento di scalzarli perché sono troppo vecchi e li fanno fuori, ciao. In questo caso i giovani animali della famiglia dominante pretendono e ottengono rispetto incondizionato anche dai vecchi. Ah, cioè se nella famiglia è tutto capo, ribaltato. Se la famiglia capo, il principino è comunque più forte comunque degli altri, esatto. Quindi questa gerarchia sociale l'hanno osservata particolarmente intorno alle terme. Alle terme che ci sono, le terme naturali ci sono in Giappone, ci sono delle foto abbastanza divertenti in cui ci sono questi scimmiotti, questi macachi, che fanno il bagno alle terme. Tutti rossi in faccia. Tutti rossi in faccia, c'è meno che 20 fuori, e ci sono i macachi che stanno nelle vasche, esattamente come gli uomini che gli piace andare alle terme. E stanno lì a brasarsela. Che ti succede, che non ti succede? Si vede che ci sono 10 scimmie in queste vasche, e poi sono piccole, e poi ce ne sono altre 90 che le guardano. Tutti quelle ingrugli. Ovviamente quelle dentro la vasca sono la famiglia dominante, e tutti gli altri stanno fuori. Molto umana come cosa. Molto umana. Come tante diverse altre cose, sono tendenzialmente animali abbastanza competitivi, uh-huh, abbastanza violenti, ma anche capaci di grande collaborazione e grande pietà, che è una cosa abbastanza particolare, ed è un po' l'ambivalenza che poi si riscontra l'uomo. Questo libro di cui vi parlavo giocava un po' su questa cosa qui, sul capitolo sui macachi giapponesi, ossia sul fatto che l'uomo è buono di natura o cattivo di natura. In realtà non è nessuna delle due, ha un carattere preciso che è scritto nel suo DNA, e poi si adatta alle condizioni dell'ambiente in cui vive. Esatto, le contingenze. Ci sono diversi esperimenti che hanno fatto con queste scimmie, per capire queste cose. Una era, per esempio, soprattutto sull'empatia e la pietà che riescono a provare una per l'altra, e non all'interno della propria famiglia, ma proprio come specie. Di solito alle bestie, se gli si fa un'azione premio, quindi tu tiri una leva, io ti do un biscotto, sì, sì, te la farei per sempre quell'azione lì, ok? E i macachi, no, qualsiasi cosa accada, se il biscotto è la cosa che ti interessa di più. I macachi invece, se tu tiri, per l'appunto l'esperimento è questo, se tu tiri la leva e dai un biscotto, ma questa leva corrisponde a una sofferenza di un altro macaco che la scimmia non vede ma sente, basta, e la scimmia si rifiuta categoricamente di prendere il biscotto e di azionare la leva. Bravo. Brava scimmia. C'è un'altra, hanno studiato una scimmia, un macaco femmina, che era nata poverina senza zampe posteriori, senza zampe anteriori, senza mani, senza braccia, e in qualsiasi altro gruppo animale sarebbe stata ciao. E invece, sì, accudita dal gruppo, è riuscita ad arrivare in fondo alla sua vita, addirittura con molti figli. Oh, carino. Sì, vivono fino ai 30 anni queste bestie, quindi grazie all'aiuto del gruppo sono arrivate in fondo. Un'altra cosa abbastanza divertente è una fattoria in Sudafrica che ha assunto una scimmia, un macaco. Un contratto regolare? No, secondo me no. per stare dietro alle pecore. Cioè, questa scimmia praticamente veniva sguinzagliata all'interno del... Ve lo leggo veloce, dai. Quando Ali era in casa dopo il... Immaginate, questa scimmia si chiama Ala, A-H-L-A, Ala. E lavorava in una fattoria in Sudafrica negli anni 50. Quando Ala era in casa dopo il pasto serale, si reca nel recinto degli agnelli. Da lì può soltanto udire le pecore adulte, ma non vederle. Appena sente dall'interno il belato di una madre che chiama il suo agnello, individua l'agnello giusto e balza attraverso l'apertura dei due recinti e lo sistema sotto la madre, così che possa poppare. Esegue questa operazione senza mai sbagliare, nemmeno quando ci sono molte madri che chiamano e molti agnelli che rispondono. A volte, addirittura, prende gli agnelli e li porta a destinazione ancora prima che la madre e il piccolo abbiano cominciato a belare. Mrs. Aston, la proprietaria della fattoria, ha osservato che nessun essere umano sarebbe capace di associare, grazie al cazzo, questo è una cosa abbastanza particolare. Che ne dice Briccobaldo? Ciao Briccobaldo. Ciao. Ma la paga in banane? Penso di... Ci sta. Altre due cose brevi, una grazie cosa me l'hai. Grazie Briccobaldo della domanda. Altre due cose veramente corte, poi ci interrompiamo perché siamo già, forse già in ritardo. Ma che ce ne Che porta. Cazzo ce ne fotte? Il... Che volete? Ah, me l'hai mandata te una notizia, me l'hai mandato te nell'altro giorno, in cui abbiamo scoperto che i macachi hanno scelto come partner sessuali, oltre alle altre scimmie della loro oltre famiglia. A masturbarsi prevalentemente, oltre a masturbarsi, cioè avere un'attività sessuale, oltre a avere un'attività sessuale tra di loro abbastanza tranquilla, hanno scelto anche i cervi. Sì. Ebbene, sì, pare di sì. Pare che è bellissima questa cosa. È vero, bella. Pare che i macachi facciano l'amore con i cervi. Su diverse popolazioni, su diverse isole, una giapponese e una non mi ricordo dove. Sempre asiatica comunque, sì. Si garbano. Hanno visto che sia macache che macachi hanno una bella attrazione per i cervi e ci scopicchiano. Sì, ci scopicchiano, si spruzzicano un po'. Questo è un interspecie. È sesso interspecie, che è una cosa che poi mi sono andato a cercare di capire come funziona. Non è proprio nuova. Non, in realtà è praticamente inesistente nel mondo animale questa cosa. Gli animali non si accoppiano tra specie diverse. Cioè, allo stato brado, magari se mettevi un animale rinchiuso con un altro animale, ci stava. Che, vabbè, tipo cavallo, cervo. Ma quelle sono le stesse bestie, lascia fare. Comunque c'è soltanto fondamentalmente una storia su otari e pinguini, ma lasciamola stare. Sì, lasciamo stare i pinguini. Che poi è molto violento. Figure molto controverse. Esatto, i pinguini sono troppo strani, non ne parliamo, non venissero a venirci a cercare. No, l'ultima cosa che volevo dire è legata a quella foto, non so se ve la ricordate, che è un selfie di una scimmia. Ve la ricordate? No, non l'ho mai vista. A un certo cosa. Punto girava su internet una scimmia che aveva rubato una macchina fotografica a un fotografo e si era sparato un mega selfie. Forse di recente. Selfie di una scimmia, un paio d'anni fa. E ho letto l'altro giorno su un giornale online che questo fotografo si confessa di fronte all'opinione pubblica lamentandosi della rovina della sua vita, cioè contentissimo di questa cosa della sua macchina fotografica, ha scattato il selfie, ma è andato in tribunale perché voleva il copyright di quella foto. Ah, cioè, invece no, era della scimmia. E invece diversi tribunali, nonostante abbiano immagino inventato la giurisprudenza intorno a questo tema, hanno detto col cazzo bello, non l'hai fatta te la foto? E lui ha detto, ma ho fatto io la macchina, cioè era mia la macchina fotografica, le ho dato io la macchina fotografica alla scimmia. E lui ha detto, no, sti cazzi, perché questa foto è girata, ha avuto un successo incredibile e quindi lui avrebbe svoltato economicamente la sua vita per sempre. Invece l'ha svoltata la scimmia. E invece sì, no, in realtà non l'ha svoltata nessuno, perché l'ha svoltata un po' tipo il copyleft, capito? Il copyright ha perso. Abbasso il copyright. Abbasso il copyright, questa era un po' l'ultima cosa della rubrica. Buono, bella, viva il macaco. Viva il macaco, certo, viva sempre il macaco. A parte sono un po' con la famiglia lì, un po'. C'hanno un po' questa cosa, sono un po' gerarchici. Nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Viva Mahako. Andiamo con Canzoncella. Andiamo con Canzoncella. Poi canzone dal nuovo album dei The Raconteurs. E dai. E via. And where you gonna go? Not that I care. can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Never thought it would be like this. What will I do now that you're gone? Now that you're gone. You're gone. Eccola, torniamo dai grandi foreste dei macachi. Sì. E torniamo dove? È nella tana delle bombe. Underground. Sì. Eccoci qua. Dai, ciao Briccobaldo. Ciao. Ci siamo già salutati, sì, ma ti risalutiamo. È un piacere come sempre essere a Fuoco alle Polveri in diretta, come sempre. Sì. E del lunedì. Che temi abbiamo oggi? Oggi per ora siamo, abbiamo già fatto un po', Ciccio, cioè, non sì, è che siamo qui a pettinare. Non è che sei, eh? E... a pettinare le bambole. Esatto, quindi cosa... ora abbiamo deciso di parlare della rete set e quindi abbiamo chiamato un illustre ospite che ci è qui con noi, già, salve caro. Ciao a tutti. Lo presentiamo, sì, è il compagno Olmo. È il compagno Olmo. Ah, così, eh? Sì, no? Sì, sì, ti sentiamo, sì, ti sentiamo. E che a un certo punto del pomeriggio ci ha mandato una cosa bellissima per mail, che è un il giuramento che è stato stilato su su un'isola della Tasmania in Australia, Maria Island, per proteggere i wombat dai turisti, dalle schifezze dei turisti. E sei selfie stick, no? Giuro che non li seguirò con il mio bastone. È bellissimo il giuramento, è fondamentalmente questo. Ce lo leggi? Ve lo leggo, volevo vedere da dove iniziava in questo, perché qui è tutta un'introduzione. Vabbè, lo leggiamo tra un pochino. No, prendo questo impegno per rispettare e proteggere gli abitanti di Maria Island, con la pelliccia e con le piume. Mi ricorderò che sei selvaggio e prometto che godrò rispettosamente delle meraviglie della tua bella casa. Bombat, ti prometto che non ti inseguirò col mio bastone da selfie e che mi avvicinerò troppo ai cuccioli. Non ti circonderò e non cercherò di prenderti in braccio. Farò in modo di non lasciare spazzatura o cibo e giuro che lascerò la tua isola selvaggia come l'ho trovata e porterò a casa solo me, con me solo ricordi pieni di bellezza. E questo è il giuramento per entrare sulla, esatto, sull'isola anche, degli Wombat. E calza anche, anche il a Wombat noi, è sotto attacco della turistificazione. Esatto. Certo, assolutamente. Turistificazione, eccola la parola magica, l'ha detta sì. Olmo. Perché Rete 7, l'abbiamo già spiegato, di che cosa si tratta, a fuoco alle polveri. Ma ti volevo fare una domanda. Sicuramente l'hai visto, non so se hai girato un po' il progetto per il Teatro Nazionale a Firenze, l'ultima chicca della turistificazione a Firenze, con caratteri veramente particolari. Sì, sì. Perché? Ce lo vuoi anticipare? Sì, è bellissimo, è una reinterpretazione di qualsiasi idea di patrimonio, conservazione. È molto interessante, è la trasformazione del teatro in una spa con piscina e saune eccetera. Non ho capito se ci si può tuffare direttamente dai balconcini, da perché in sarebbe caso no. Io ci sto. I balconcini saranno delle sorte di privé, ecco. Vasche, non so se vasche. Non lo so, no, non io ho visto in verità, non so se saune, comunque non saranno, secondo me non vasche, saranno delle sorte di balconcini relax, quanto ho capito, con una mega vascona al posto della platea. C'è una vascona così, mega piscina in mega mezzo piscina. Alla piscina. Sì, daranno la lacca su tutto il teatro, speriamo. Ma sì, sicuramente potremmo finalmente avere anche noi dei gladiatori da mettere all'entrata delle terme, no? Perché secondo sì, me poi possiamo metterci anche le barche dentro, dall'America il gladiatore non, cioè, se l'aspetta un po' ovunque, non, certo. Cioè, non limitato solo a Roma, capito? Anche guidare la gondola, poi potrebbero mettere. Potremmo mettere una gondola. Potremmo mettere una gondola. Una gondola. Proponiamo questa cosa, dai. Magari ci danno poi libero accesso. Ecco, ma comunque questo è l'ultimo, forse vabbè, anche eclatante esempio di ciò che sta succedendo a Firenze da ormai diversi anni, e noi lo chiediamo a te, ma anche alla Rete 7, quindi perché succede questo e tendenzialmente chi è che manovra? Sì, il lavoro che stiamo facendo è un po' quello di cercare di capire, lavorare e costruire delle prassi nel lavorare attorno a queste tematiche. Perché sì, la turistificazione non è quello che confonde molti, appunto, il turismo e turistificazione sono due fenomeni sicuramente, cioè, dipendenti, ma la turistificazione è quando la città prende la forma, no, in funzione del turismo. Fa rima con colonizzazione, tra l'altro. Sì, anche estrazione. Anche estrazione. E quindi sì, come vediamo per esempio il teatro, no? In qualsiasi ragionamento che riguardi appunto il lavoro sul patrimonio storico, le indicazioni sono quelle appunto di cercare di mantenere, non è che si debba mantenere per forza ogni sasso, come quello invece è la musealizzazione, che anche quello fa rima, ma quello di andare a dare una continuità nella vita dell'edificio, che comprende non solo i sassi ma anche le persone, appunto le pratiche che dentro quegli spazi hanno vita e che hanno dato vita a quegli spazi. Quindi ovviamente se pensiamo che quello è un teatro e che quello diventa una spa, capiamo che non c'è questo passaggio, non c'è questa ottica, no? E invece c'è l'ottica di messa a valore di una... Io sono un po' un ignorante, però l'urbanistica in teoria è una roba che si studia e che viene applicata negli edifici, soprattutto negli edifici di interesse pubblico come possono essere un teatro o cose del genere, quindi mi vuoi dire che in queste trasformazioni l'urbanistica viene un po' messa da parte? Sì, l'urbanistica adesso è una disciplina abbastanza complessa, perché in realtà cerca di unire molte altre discipline nel tentativo di lavorare sul territorio, però sì, questo è proprio il restauro in generale, le carte del restauro parlano di questo, ma come vediamo in tutte le città dove si sta affermando questo fenomeno, e sono di solito le città d'arte appunto, spesso viene completamente attaccato questo patrimonio da cui si vuole estrarre valore, perché appunto la logica che si va a imporre non è più quella del valorizzare l'esistente, cioè la città che c'è, ma del dargli un valore che sia un'attrazione per appunto qualcun altro. Quindi non è più il quotidiano e il chi vive la città che ne fanno, ne caratterizzano il valore e anche il, insomma, l'essere in sé, ma è la città che si adatta a qualcos'altro, quindi diventa servizio. Ecco, e quindi Rete 7, dicevi, si occupa di studiare questi meccanismi? Rete 7, sì, appunto, se ne è già parlato, è una rete che va appunto su tutto il sud Europa, ma in particolare è nato il nodo fiorentino dall'unione di varie realtà e soggetti interessati. Il lavoro che sta portando avanti, diciamo che è quello da una parte di, cioè, è un lavoro di sintesi fra le diverse, i diversi lavori che comunque venivano portati avanti più individualmente, cercando di mettere insieme questi dati, di fare delle analisi approfondite, ma poi di riuscire a relazionarle fra loro. Quindi c'è, cioè, per esempio un lavoro per cercare di capire chi sono effettivamente gli investitori, cioè ricondurre in cima, no, alla gerarchia chi è effettivamente che sta comprando Firenze, no, attraverso questo fenomeno, e nello stesso tempo magari fenomeni più dal basso, quindi come varia lo spazio pubblico, come, no, abbiamo visto ogni giorno, insomma, le nardellate ci raccontano di come non si può più stare sugli scalini, non si può più, e tutto questo comunque è in funzione di una città che non è per noi ma è per qualcun altro. Quindi si sta facendo questo lavoro, si sta cercando di mappare, di testare un po' di strumenti, diciamo, collaborativi per riuscire a descrivere meglio il fenomeno. E anche per portare avanti delle pratiche. Sì, e cercare di, sì, dare forza, no? Individuare le cause, di fare un po' di ricerca su quelli che sono i fenomeni per poter agire e costruire collettivamente un'alternativa. Abbiamo un appuntamento, anzi due, nel prossimo futuro a Firenze. Esatto, perché questo nodo è nato subito dopo il primo incontro nazionale, alla fine di quest'autunno, e si è dato subito come obiettivo quello di organizzare il secondo incontro nazionale proprio qua a Firenze. Quindi ci sarà prima la presentazione del lavoro del nodo fiorentino, che sarà giovedì 31 in Polveriera, e adesso uscirà l'evento, c'è un blog che si chiama Rete 7 No Blogs e Rete 7 e Firenze, scusate, set. Rete 7 Firenze no Blogs, no blogs. E quindi lì verranno passate le informazioni su quello che si sta organizzando, quindi lì verrà presentato più il progetto d'insieme e quello che è il progetto invece di questo incontro nazionale, che durerà 3 giorni, inizierà il 1° di marzo per finire tutto, per occupare tutto il fine settimana, quindi diciamo coincide già con delle questioni locali, nel senso che il 1° di marzo ci sarà, a proposito di turistificazione, l'asta di Mondeggi che viene nuovamente messo in vendita dalla città metropolitana, e quindi da lì, da queste cause, diciamo, locali, si sta cercando di ricollegarle con quelli che sono i discorsi a livello nazionale. Quindi, diciamo, quello che è previsto, sono previste varie attività di tipo sia laboratoriale sia tavoli e riflessioni di questo tipo, e si partirà appunto con una passeggiata per il centro per conoscere appunto, in collaborazione con Firenze No Host, sono stati ospiti qui a Fuoco alle Polveri, fra l'altro. Esatto, grandissimi, si sono subito resi disponibili a raccontarci appunto queste storie sul margine dell'avanzata, no, della città brand. E questa passeggiata finirà ad Architettura, dove si farà il primo incontro con la presentazione, che è sempre il venerdì 1, e ci sarà una serata lì con il collettivo di Architettura Arche e tutti gli ospiti che verranno dalle varie città d'Italia, e speriamo anche qualcuno dalla penisola iberica, visto che è lì che sono più forti, no? E questo è la più forte, il lavoro della rete. E il giorno dopo sarà tutto al Next Emerson. Sì, ecco, è Next Emerson proprio perché la Rete 7 non si occupa esclusivamente del centro della città, che è quello che, diciamo, subisce in modo più apparente la turistificazione. Anche le periferie hanno gravi danni a causa delle infrastrutture, soprattutto, no? Se pensiamo all'Emerson, è a 2 passi dalla nuova pista e a 2 passi da tutta la riqualificazione dell'area Castello, e quindi insomma è più che coinvolta. Sì, sì, le città sono, possiamo dire che sono ecosistemi e organismi, no? Per cui non è che se a uno gli si ferma il cuore poi il resto non ne risente, no? Per cui anche le zone più periferiche subiscono da una parte l'espulsione dei residenti appunto dalle parti turistificate e che diventano pendolari, quindi tutta la struttura si va ad adattare a una città fabbrica che produce un solo prodotto, che è questo consumo del sociale, del bene comune, no? Estrazione di valore dal bene comune in senso materiale, come possono essere concepiti monumenti, il patrimonio, il tessuto storico, ma anche immateriale, come possono essere, insomma, tutte le forme di arte, ma anche i modi di vita che diventano attrazione per no, il molto caratteristico l'experience. Esatto. Bene, quindi sabato all'Emerson vi saranno dei tavoli tematici. Se non sbaglio ci saranno, sì, esatto, sono stati organizzati vari tavoli, adesso non sto qui ad assillare bene sulle cose, ma alle scale appunto dell'abitare, quindi del quotidiano, e alla scala invece del territorio, e questi tavoli affronteranno sia quelle che sono l'aggressione della turistificazione, sia quelle che sono nelle singole realtà le varie pratiche che sono state messe in campo. In tutto questo il pranzo e il cibo sarà preparato dalla rete di Genuino Clandestino, Jerome Laronze, con grandissimo piacere, leccandosi i baffi naturalmente, per poi spostarci la domenica in polveriera. Sì, perché durante il sabato già e già prima, insomma, ci saranno dei laboratori, stiamo organizzando tutta la componente più creativa, artistica anche, che sarà attorno a questo evento, e in particolare, insomma, il sabato prepareremo le cose per poi dalla polveriera pensare appunto come fare. Tutto molto in itinere, però i laboratori più o meno si stanno definendo. Ci sono discorsi più legati alle narrazioni, ma anche discorsi più di arti visive, teatro, in particolare diciamo che la parte che può essere più divertente sarà che la domenica è carnevale e quindi, ma guarda un po', quindi e quindi le regole si sovvertono. Esatto, a carnevale ogni scherzo vale, noi stiamo già tramando qualcosa, vi faremo sapere. Surprise. Sarà una real experience. Sarà una real experience. Direi a questo punto un pezzaccio. Poi torniamo con un nuovo ospite. Vai. Con un nuovo ospite. Sì, con un nuovo ospite. Di tutte altre cose, nuovo ospite. E l'uomo sarà. Omlo. Wombat Wombat. Noi siamo, viviamo, ci percepiamo in questo spazio, in questo tempo e in questa dimensione, ma non capiamo che vuol dire, perché un'altra non la riusciamo a concepire. Abbiamo un corpo, siamo animali, siamo mammiferi di razza umana, viviamo sulla terra, abitiamo soprattutto nelle città dell'emisfero boreale. Viviamo nel ventunesimo secolo, terzo millennio, in piena crisi del capitalismo e del mondo com'era nel Novecento, prima della rivoluzione digitale. Siamo europei, siamo russi, siamo australiani, siamo cinesi, siamo indiani e africani, arabi e americani. Se ci osservi da vicino, siamo molto diversi tra di noi. Cambiamo cultura e valori in base alle epoche, ai luoghi o ai genitori. Eppure c'è qualcosa che non dipende dal caso o dalle convenzioni. È l'unica oltre l'amore che resiste alle mutazioni e ci fa somigliare anche da lontani. anche ora nel ventunesimo secolo, terzo millennio, in piena crisi del capitalismo e del mondo com'era nel Novecento, prima della rivoluzione digitale. Resta una cosa nel profondo di ognuno di noi, è l'unica oltre l'amore che dice davvero chi sei. È qualcosa che oltrepassa la storia e la geografia, la religione e l'ideologia. Viene da prima del Novecento, ci unisce attraverso il tempo, ci fa odiare alla follia. Vivrà per sempre finché vivrà qualcuno di noi, è l'unica oltre l'amore che dice davvero chi sei. Provi a darglielo ma non ha un nome e non ha una bandiera, a volte li prende e li cambia in un'ora. Ma ci dice qual è il nostro posto e ci rappresenta più di un pensiero o di un sentimento. Esiste da sempre, la incontriamo tutti prima o poi, è l'unica oltre l'amore che dice davvero chi siamo a tutti gli altri uomini come noi. È quella cosa che ci divide tra chi simpatizza con chi vince e dall'altra parte, ovunque, da sempre e per sempre, chi simpatizza con chi perde. Passaggio al testimone nella regia, il buon Joao è scappato a gambe levate. Si è messo comodo, comodo sul divanetto. Sì. No, è lì alle tue spalle e ti guarda come un avvoltoio. Oh. In verità. E anche voci nuove, abbiamo il compagno Omlo, giusto? Che rientra dopo una lunga assenza. E invece una compagna, Xina, che è qui di fronte a noi, voce nuova di Radio Wombat. Perché sono qua? Perché sono qua? Perché ci devono dare un aggiornamento su una situazione che abbiamo seguito a lungo in passato, che sta andando avanti e ogni giorno vi sono novità, anche se noi non ve le diciamo, però ci sono. Si sta parlando naturalmente della rivoluzione curda nella Siria, E ne abbiamo parlato anche precedentemente con i ragazzi e le ragazze del collettivo di Crisis, se forse voi ne abbiamo parlato più in senso generale, se ci sapete dare delle informazioni aggiornate sulla questione, che è molto complicata. Io, se siete d'accordo, lascerei la conduzione a Xina, che intervisterà il compagno Omlop. Allora, intanto, ciao. Ringrazio molto per questo nome, mi ci riconosco quasi. Inizio proprio a vestirlo in maniera confortevole. Ti abbiamo già chiamato due volte, sicuramente il mio progetto nel 2019. Allora, compagno Omlo, io direi che possiamo iniziare. Ti chiederei intanto qualcosa rispetto a questo balletto internazionale che stanno facendo sulle spalle e sulla pelle di queste popolazioni, che ricordo, ci tengo sempre a ricordare che il popolo curdo, ovviamente noi lo ricordiamo perché inizia, insomma, la sua lotta, ma adesso nella rivoluzione confederale della Siria del Nord e dell'Est possiamo dire che ci sono una commissione di popoli che rende tutta l'esperienza ancora più significativa. Quindi sì, la mia prima domanda rispetto al ballettino internazionale che stiamo vedendo, diplomatico e non, le nostre sparate, Trump e la Russia e l'Iran, e cosa succederà e a chi gliene frega qualcosa di questo popolo? Allora, provo a fare un aggiornamento un po' freestyle dell'ultimo mese di geopolitica. Come al solito, insomma, dai, ci provo. Dai, Sì, parliamo della parte quindi siriana di questo modello, diciamo, del confederalismo democratico, e quindi della confederazione della Siria del nord-est, che appunto ricordiamo, come giustamente diceva Xina, scusate, questo nome ancora, che comprende molti popoli, molte etnie, appunto è arrivato tramite l'azione appunto direttamente del popolo curdo, ma si è poi espanso ad altri territori. Come più o meno sapete, il nemico ovviamente frontale di questa rivoluzione è stato da subito Daesh, quindi lo Stato Islamico che li aveva attaccati direttamente, e in questa cosa appunto si erano aggiunti poi tutti i vari attori internazionali. Ovviamente quello che poi sostiene, sta dietro, la potenza che sta dietro a questo estremismo salafita è la Turchia. E quindi questo aggiunge un certo grado di complessità nel momento in cui a sostegno della rivoluzione confederalista c'è altri membri della NATO. E quello che abbiamo visto da dicembre è stato appunto l'avanzata delle forze siriane democratiche che stavano, diciamo, hanno ridotto l'ISIS oggi in uno spazio di pochi chilometri quadrati, che stanno continuando ad avanzare, hanno liberato migliaia di prigionieri dell'ISIS e stanno, diciamo, mettendo fine all'esistenza dello Stato in quanto tale, di un territorio controllato dallo Stato Islamico, anche se ricordiamo che questo gruppo è stato in grado di colpire e far danno anche ben fuori dai suoi territori, come insomma anche in Europa. Quindi è chiaro che questo non è la parola fine a... Ma poi la storia ci insegna lì proprio nel Medio Oriente che non è che se ti togli il territorio scompaiono magicamente. Sì, questo non è, cioè, è una questione più ideologica, appunto l'estremismo islamico di questo, cioè l'ISIS ha comunque sempre lavorato in maniera nascosta attraverso varie modalità di organizzazione e di azione. E quindi è chiaro che la scomparsa di un territorio dello Stato Islamico significa certo la liberazione di tutti quei popoli che comunque erano sottomessi a questa follia, perché non c'è altro termine. però appunto rimane non è un problema che viene cancellato. Invece il nostro caro genio Trump, ancora prima che il conflitto fosse finito, su pressioni di Erdogan, con il quale cercava di ristabilire un rapporto che non fosse proprio di inimicizia, ha annunciato il ritiro a sorpresa delle truppe. Questa cosa ha scatenato un effetto a catena su tutti i livelli, ovviamente perché prima di tutto Trump agisce attraverso i tweet, no? Come conosciamo insomma anche i nostri politici, quindi non ha consultato nessuno, ha messo più o meno in panne la macchina burocratica degli Stati Uniti, che comunque è una delle più oliate, no? Di tutte. E quindi si è inimicato in realtà i vertici del Pentagono, ha generato una serie di problemi, perché quello che annunciava non era possibile, ma soprattutto quello che annunciava era appunto la ritirata delle forze statunitensi a favore di quelle turche, che però dichiaravano sin dall'inizio di fare un'azione contro il terrorismo, dove per terrorismo loro intendono l'ISIS, che però loro stessi hanno sostenuto e che ormai è completamente cancellato, da rispetto invece anche le YPG, che sono, cioè, che loro considerano parte del PKK, e quindi di terroristi da 20 anni andavano ad attaccare direttamente quegli stessi che stavano sconfiggendo l'ISIS. Quindi questa cosa ha provocato varie reazioni. Trump più o meno è stato in parte fermato dai suoi stessi, cioè dal suo stesso Senato, da altri interventi che hanno cercato di tappare un po' i buchi, i danni che aveva creato. Hanno annunciato appunto questo ritiro, ma poi l'hanno procrastinato a tempo non chiaro, perché ovviamente questo poi cosa ha provocato? Che immediatamente le forze confederaliste si siano andate a organizzare per affrontare la situazione. Quindi la prima minaccia era sulla città di Mianbij, che sta appunto a diretto contatto con le forze jihadiste di occupazione che la Turchia ha fatto entrare in Siria, no? Nelle due offensive, lo scudo dell'Eufrate e il ramoscello d'olivo, ed era appunto il primo obiettivo di Erdogan. Per fermare ciò hanno iniziato una trattativa con le forze governative e con quindi anche con la Russia come mediatrice, per creare non mi viene il termine, però insomma delle forze dissuasive, nel senso che la presenza russa impedisce un attacco turco. E questo appunto ha generato molti dibattiti, perché è una cosa che non è stata, cioè, per una difficoltà probabilmente di comprensione da parte di molti del modello confederalista. Questo perché il modello confederalista non va contro l'integrità dello Stato siriano o degli Stati in generale. Quello che cerca di costruire è un decentramento più o meno del potere, e quindi uno svuotamento delle funzioni dello Stato in sé, che però appunto secondo questa visione continua ad esistere. Per esempio appunto i confini nazionali, che non sono una cosa che riguarda l'organizzazione dal basso, ma quelle che è la preesistenza di uno Stato, appunto rimangono di competenza di quello Stato. Quindi in realtà i confederalisti sono sempre dichiarati abbastanza disponibili al fatto di pattugliare per esempio i confini con la Turchia da parte di forze governative, quando queste non vadano a togliere, diciamo, le libertà politiche e l'autogestione che effettivamente esiste appunto in quei territori. Quindi questo ha generato grandi confusioni. In realtà appunto la situazione si è andata stabilizzando, per il semplice fatto che appunto all'entrata di queste forze gli americani hanno subito fatto un passo indietro, quindi e dall'altra parte sia la Francia che il Regno Unito hanno dichiarato che che sarebbero rimaste su questo territorio, e quindi al momento attuale la situazione rimane abbastanza invariata, con la Turchia che minaccia un'aggressione da un giorno all'altro, ma gli americani che, non, cioè che chiedono una garanzia rispetto a una non aggressione verso i curdi. Quindi sono tutti lì schierati intorno alla città di Manbij. Sono tutti lì schierati sui vari fronti. La Turchia non sta minacciando solo Manbij, sta minacciando anche Kobane e le altre città, diciamo, di confine. Però sì, la situazione attuale è quella di un tentativo di scambio dove gli Stati Uniti si trovano nella contraddizione di aver un alleato, aver diciamo sostenuto un gruppo in Siria per garantire diciamo il loro obiettivo era quello di non di privare il governo del lato più a est, no? Dell'Eufrate, dove a parte esserci la maggior parte dei pozzi petroliferi c'è soprattutto il confine con l'Iraq, e quindi quel potenziale corridoio diretto sciita che potrebbe collegare l'Iran al Libano degli Hezbollah e quindi diventare una minaccia per Israele, che infatti non sta a guardare. E infatti anche in questa fine settimana è andata a colpire degli obiettivi militari l'aeroporto di Damasco. Adesso insomma c'è di nuovo un'altra fase, c'è stata una piccola escalation, perché Israele continua a colpire qualsiasi base che l'Iran tenti di mettere in un territorio diciamo prossimo al suo territorio. Quindi diciamo che attualmente la situazione è divisa in questi tre parti della Siria, dove agiscono comunque vari membri NATO, ma ognuno in maniera diversa. Cioè la parte appunto dove il governo e quindi anche la Russia hanno il controllo viene colpita da Israele appunto con dei raid, non va a prendere territorio ma vanno a colpire degli obiettivi strategici. Dall'altra parte c'è la zona sotto il controllo turco, che è stata messa in mano a tutti questi vari gruppi jihadisti che in questi ultimi tempi tra l'altro si sono anche azzuffati fra di loro, perché insomma ognuno, il settarismo porta poi anche a una difficoltà di controllo da parte di chi cerca di strumentalizzarli e di usarli a suo favore. E quindi questa parte che è Idlib e Afrin, dove ancora le forze curde continuano con la guerriglia e continuano a colpire nel tentativo di riprendere, di liberare, no, il cantone di Afrin, e la parte appunto sotto il controllo confederalista praticamente contesa da la Turchia, che tenta di avere il nulla osta per poter aggredire queste popolazioni, e gli Stati Uniti che si trovano in questa posizione di bilico, diciamo. Questo è il riassuntone di che fine anno. Poi una cosa sicuramente da notare è che questa Turchia alla fine poi con questa guerra ci sta facendo, cioè ha bisogno e ha la necessità di farci la sua campagna elettorale, visto che è in periodo di elezioni. Il 31 marzo ci saranno le elezioni in Turchia e Erdogan cerca di pompare diciamo il sostegno anche interno, che sta via via perdendo all'interno della Turchia stessa, con una campagna elettorale basata sull'essere insomma tendenzialmente un guerrafondaio. Sulla guerra lui ha sempre fatto le sue campagne elettorali, è sempre riuscito a cavalcare quell'onda di nazionalismo e di concetto comunque di ritorno all'impero arabo, no? Un'idea di quasi ottomana per quanto riguarda le estensioni del territorio. Poi è un momento particolare perché il 31 per esempio si scontrerà contro l'HDP, che per la prima volta si presenta alle elezioni rappresentando praticamente tutta l'opposizione, tutto il popolo curdo e non solo, e tutte quelle minoranze che hanno subito comunque l'attacco della Turchia in tutti, insomma, in centinaia e centinaia di anni, anche uno solo fra tutti, il popolo armeno, che è stato veramente decimato dal genocidio perpetuato dalla Turchia all'inizio del Novecento. E quindi sì, quest'anno sarà un anno di svolta, perché poi abbiamo visto come, appunto, come diceva anche il compagno Omlo, sulle questioni dell'America che ha fortemente interesse, cioè questo è l'anno in cui l'America vuole fare la guerra con l'Iran e quindi sta prestando tutto quello che può prestare per fare questa guerra. Quando ha fatto le sue scampagnate in Afghanistan e in Iraq, adesso è il turno dell'Iran. Iran che, infatti, come si diceva appunto in questo giro internazionale, abbiamo anche le posizioni della Russia e dell'Iran poco chiare, perché sono sempre stati i primi alleati della Turchia, ma loro stessi in questo clima di incertezze internazionali non si sono ancora espressi, non si sono ancora esposti riguardo poi all'effettiva invasione della Siria. Quindi insomma stiamo un po' qua a vedere, io penso che i compagni giù in Rojava e in Bakur non si stanno fermando, non si stanno arrendendo, non si fermeranno davanti a nulla. L'unica cosa che ovviamente sono stati costretti a fare è quello di alleggerire la parte del fronte contro Daesh, e quindi di alleggerire tutta il fronte delle Zor, ma e riconcentrare un attimo le forze per stare a vedere che cosa farà la Turchia, visto comunque l'enorme mobilitazione di truppe che ha subito messo in campo, come sempre, diciamo, per far sentire la presenza ai confini e oltre, e per far presagire l'imminente attacco, come dicevi anche te, gli sporadici bombardamenti. E quindi sì, il clima generale è veramente, veramente teso, perché dall'altra parte poi ovviamente abbiamo Abdullah Öcalan in carcere, che recentissimamente, settimana scorsa, ha potuto incontrare suo fratello, ma ricordiamo che non vedeva nessun familiare da 2 anni, non vede rappresentanze legali da 7 anni, è in isolamento e rimane in isolamento, e la compagna della parlamentare dell'HDP, Leyla Güven, che è in carcere in Turchia, e lei ha iniziato questa campagna di sciopero della fame. Ha iniziato lei, è infatti la compagna che è in uno sciopero della fame più lungo rispetto a tutti gli altri, perché questo suo gesto ha fatto poi seguire una solidarietà internazionale che si è alzata dai prigionieri politici delle carceri turche, e non solo, perché abbiamo scioperanti della fame a Strasburgo, abbiamo scioperi della fame in Inghilterra. Lei è oggi al 75esimo giorno di sciopero della fame, quindi non ci vuole un dottore per dire che le condizioni, insomma, di salute iniziano ad entrare in una zona molto molto critica. E i 15 compagni a Strasburgo sono in sciopero della fame da 37-38 giorni, quindi insomma anche loro iniziano a tirare molto verso una zona pericolosa, ovviamente nel silenzio dei nostri media che non ci fanno sapere nulla, nel silenzio ovviamente della comunità internazionale, che a questo proposito non si esprime e non si esprimerà. Oscura, anzi, esatto, direi proprio oscura. E poi abbiamo la repressione che possiamo palpare con mano, che ha a che fare con l'Italia in questi giorni, perché dopo che abbiamo avuto il piacere di sentire le parole di Trump, nel giro di una settimana la Procura di Torino ha notificato a 5 compagni italiani che sono andati in Rojava a vario titolo, perché 4 di loro si sono arruolate nelle unità popolari, negli YPG e negli YPG, e uno di loro è andato a far parte, diciamo, dell'apparato civile della rivoluzione confederale, e sono stati, diciamo, inquisiti dalla Procura di Torino perché considerati fondamentalmente socialmente pericolosi. Ora, già lo ricordavano i compagni del collettivo Crisis prima, tengo a sottolineare che la misura della sorveglianza speciale è una misura che ha fra le sue varie clausole alcune cose assolutamente pazzesche, perché non solo ovviamente può portare all'obbligo di dimora o può portare ad un allontanamento da una città, ma una cosa che è sconvolgente, forse la peggiore, è che non puoi incontrare più di 2 persone alla volta. tu non ti puoi riunire con più di due persone alla volta. Neanche un caffè al bar. Neanche un caffè al bar, perché dici, vai, sono di più le persone che c'è intorno. Già in autobus è un casino, cioè, lì proprio sei, basta, a quel punto ti chiudono dentro, buttano via la chiave. Perché la cosa è pazzesca, perché ovviamente le persone che vanno in Rojava, oltre al contributo materiale che questi compagni possono dare lì, sono una fonte inestimabile di informazione e di confronto per noi che siamo qua e possiamo solo guardare da lontano e farci anche un po' intortare dalla stampa internazionale volendo. Ecco, no, una domanda la volevo fare: dov'è che ci si informa? Perché appunto i media oscurano e spesso le poche notizie che escono sono veramente, non dico delle fake news, ma al limite. Quali sono i canali per informarsi bene? Allora, senti, ci sono sicuramente i canali più ufficiali della rete Kurdistan Italia e di Wiki Onlus, che sono sicuramente, insomma, diciamo un punto di riferimento dal punto di vista delle informazioni che si possono ottenere, sono in continuo aggiornamento e soprattutto con contatti diretti sia con il Bakur che con il Rojava. Ci sono varie pagine Facebook, per esempio Rojava Resiste, una pagina Facebook, ha creato anche un gruppo Telegram che aggiorna spontaneamente, quindi sul telefonino, se uno ha l'applicazione di Telegram può ricevere, sono aggiornamenti che arrivano una volta ogni 2 o 3 giorni, dipende ovviamente anche dal momento, e sono molto puntuali, sicuramente sono dei punti di riferimento. Poi le iniziative, sicuramente le iniziative sono dei bei momenti, quasi, insomma, periodicamente nelle città possiamo vedere iniziative, apprezzare iniziative, insomma, di compagni che sono stati lì o di compagni curdi che vengono a raccontarci la loro storia, i canali su alcune cose, anche i canali della Mezzaluna Italia sono un buon punto di informazione. E sicuramente poi ci sono vari testi che magari possono non essere di informazione quotidiana e super attuale, ma che secondo me possono essere fondamentali anche per poi capire un certo tipo di dinamiche. Rimando ai 2 libri scritti da Davide Grasso, ma poi testi anche più, diciamo, formali, come può essere il Laboratorio Rojava, che è sicuramente testo su come è avvenuto tutto il cambiamento sulla rivoluzione confederale. E a questo aggiungerei il lavoro di InfoOut, che comunque è più o meno il canale principale che attraverso appunto chi è stato là e con dei collegamenti diretti riesce con le carovane di solidarietà, con i gruppi appunto che vanno direttamente sul luogo, è, diciamo, un po' il canale principale di informazioni non filtrate in italiano. Poi a questi si aggiungono magari giornali direttamente online curdi come ANF o ANAH, sono 2 agenzie di informazione direttamente di là e che quindi mandano, diciamo, la loro versione. Ci sono anche delle mappe online che sono particolarmente utili volendo, tipo Syria Live UA Map, che georeferenziano i vari dati, soprattutto i vari post o cose di Twitter, immagini, cioè sono il modo attraverso cui informazioni che vengono direttamente da profili Twitter di persone che magari si trovano effettivamente sul luogo vengono presi e messi, inseriti in queste mappe, quindi si può avere un minimo di idea di quello che sta succedendo sia a livello diplomatico che militare. Bene, ok, noi forse siamo in chiusura, però magari se la potete lanciare i prossimi appuntamenti sul tema a Firenze, che sono prossimi veramente. Allora, molto prossimi, abbiamo sicuramente il presidio in prefettura il 23 alle 18, via prefettura si trova in via Cavour 1 ed sarà un momento per dare appunto solidarietà a questi 5 compagni che la mattina del 23 subiranno il processo per la sorveglianza speciale. Il 23 stesso poi seguiremo andando in corteo in Brunelleschi e facendo un dibattito fra cui fra l'altro verranno a raccontarci un po' anche i compagni della comunità curda e alcuni ragazzi della rete Kurdistan Italia. Il 24 saremo di nuovo in Brunelleschi con una giornata un po' più informativa, avremo del live painting, della musica e poi la cena fatta dalla comunità curda, quindi cibo curdo, top. Buono. E poi alle 21 la proiezione di un film. Altri appuntamenti importanti: abbiamo il 26, ci sarà un presidio corteo a Livorno, partirà proprio dalla sede della Mezzaluna, sarà presente tutta la comunità curda, della Toscana. L'1 di febbraio abbiamo una bellissima iniziativa al CPA, dove sarà presente anche Rashid, che è un compagno curdo che in particolar modo potrà darci gli ultimissimi aggiornamenti. E ci tengo anche a rilanciare poi l'8 di febbraio, sempre in Piazza Ciompi, avremo un volantinaggio e presidio con sempre per rilanciare tutto ciò, poi per culminare nel corteo che si terrà a Roma, un corteo nazionale del 16 di febbraio, a cui ovviamente invito caldamente la partecipazione di tutti, e lì sarà un modo e un momento di lanciare un messaggio importante in Italia e ai nostri compagni giù in Rojava. Bene, sicuramente avremo modo di rilanciarlo, vai, prego. Sì, l'ultima cosa più a lungo termine di cui si parla rispetto alla solidarietà, come abbiamo visto appunto le logiche che guidano comunque la violenza di Erdogan, che no, viene definita come una cosa, come una follia personale, ma sono semplicemente logiche elettorali, no? Come, certo. Come qua, anche là, a un livello più estremo, si punta sull'estrema destra e quindi su un nemico per coprire appunto il collasso totale anche dell'economia turca, eccetera. In questo contesto ci saranno le elezioni amministrative particolarmente importanti dal punto di per il lavoro fatto appunto dall'HDP nel territorio turco, dove il tentativo è stato quello di passare attraverso le istituzioni democratiche per poter gestire a livello locale, attraverso le varie ecosindaci e quindi una gestione diretta delle amministrazioni. Quindi ci sarà questo momento fondamentale e appunto la comunità curda chiede la presenza di osservatori internazionali, e quindi c'è questa chiamata aperta per l'ultima settimana di marzo, la prima di aprile, e questo si andrà definendo, però la richiesta è quella di essere lì, perché è l'unica cosa che li può proteggere e portare un po' al mondo quello che succede, visto che non saranno certo gli stati a salvare la confederazione, ma possiamo farlo solo noi. Bene, grazie mille Xine Omlo, preziosissimo contributo. E il nostro regista, non so se ha in programma un pezzo. No, siamo in dirittura d'arrivo molto vicina, quindi direi si saluta. Salutiamo e ci ritroviamo fra una settimana. Non scordatevi Coccoli al Silicio alle 21:30, controllate sempre il palinsesto Wombat, perché stanno venendo fuori cose nuove, in particolare, no, non lo annuncio, una nuova trasmissione, forse due, forse magari anche tre, chi lo sa, comunque. Pieno pieno, tutto pieno, cresce il Wombat. Cresce il Wombat. Viva viva. Allora a lunedì prossimo, eh? A lunedì. Wombat. Wombat, Wombat. Con le polveri. Go hell and polveri. Radio Bomba. Scherzavamo, non è finito qua. Non è finita, perché c'è il nostro caro amico Nardella, che non possiamo farla aspettare. Ne ha fatta una delle sue. È vero. Bellissima, fra l'altro, non ci credevo quando l'ho clamorosa. Mi è arrivata clamorosa, ieri. Clamorosa. Bellissima, sembrava finta, nel senso, sembrava sì, una cosa costruita ad hoc, ma giuriamo che non è costruita ad hoc da noi. Possiamo leggere direttamente l'articolo abbiamo trovato sul Corriere Fiorentino. Disco Nardella o anche Sindaco DJ, chiamatelo come preferite, ma una cosa è certa: non si era mai visto il primo cittadino violinista classico così tanto fuori ruolo e fuori schema, tutto l'opposto del suo classico. Vabbè. Vabbè. Mattatore del divertimento notturno, impegnato a surfare sui piatti come uno che alla console di una discoteca c'è nato. Volume alto, dito alzato. Dito alzato, come a chiamare a raccolta gli astanti a ballare. A briglia sciolta. È successo venerdì sera quando il primo cittadino ha fatto le ore piccole ballando allo Student Hotel di Viale Spartacolo Bagnini ed estando stupiti commenti tra gli ospiti. L'occasione è il 36esimo compleanno di Tommaso Sacchi, l'uomo chiave dell'asse Firenze-Milano nello sviluppo della cultura contemporanea in città, curatore dell'estate fiorentina e della campagna elettorale per la rielezione a Palazzo Vecchio, per appunto... tac. Per il compleanno del rampollo di Stefano Boeri... fa venire mal di stomaco comunque, sì, infatti, cosa, eh. Si è presentata a mezza Firenze di ambito politico e culturale. Un pezzo di giunta, la vice sindaca Cristina Giachi, gli assessori Funaro, Vannucci, Del Re e Gianassi, il presidente del consiglio comunale Andrea Ciccarelli, quello della Camera di Commercio Leonardo Bassilichi, Diego Passoni di Radio DJ, l'attore Maurizio Lombardi e il cantante Lorenzo Baglione, molti operatori culturali, gli antiquari Olivia Turchi e Fausto Calderai, mercante d'arte Fabrizio Moretti ed altri. Oltre al magnato olandese Franco Affen, giustamente uno dei proprietari dello Student Hotel, con Ardella ha collaborato alla riapertura della manifattura tabacchi. Tutti lì questo erano. È tutto, cioè, tutti lì erano. Il titolo dell'articolo è: il sindaco DJ si scatena alla console della festa. Tutto ciò è meraviglioso, direi. Sì, ma io, cioè, facciamo un appello: se qualcuno c'era e ha fatto dei video, ma vi prego, perché non ci sono tracce video, prego, a parte una foto, ci sono pochissime foto. Secondo me è stato il contatto con il nuovo laser che lo ha, che l'ha così un po' galvanizzato. È diventato un rave, è passato dal lato della movida. No, vabbè, ragazzi, vi grazie, risalutiamo, dai, vi risalutiamo, grazie. Risalutiamo Fantozzi, via. Ciao, ciao, amici. Ciao. Si siede qui. Ma qui, al suo posto. Certo. Un sorso d'acqua, un tozzo di pane. Ma scusi, conte. Io mangiare con lei. Ma certo. Che differenza c'è fra me e lei? Ma abbia pazienza. Ma come, che differenza c'è? Non mi vorrà mica dire, signor Duca, che siamo uguali io e lei. Voi siete i padroni, gli sfruttatori, noi invece siamo gli schiavi, i morti di fame. Oh, ma caro Fantozzi, è solo questione di intendersi, di terminologia. Lei dice padroni e io datori di lavoro. Lei dice sfruttatori e io dico benestanti. Lei dice morti di fame e io classe meno abbiente. Ma per il resto la penso esattamente come lei. Come? Altezza, come? Io, come lei, sono un uomo illuminato e sono convinto che a questo mondo ci sono molte ingiustizie da sanare. La penso esattamente come lei e come il nostro caro dipendente Folagra. Ma, mi scusi, sire, ma non mi vorrà dire che lei è, scusi il termine, sa, comunista.